No, non va bene questo qua. Insieme ora va. Left e right. Che cazzo stiamo dicendo? Non va bene così. Giuseppe, sto provando, Giuseppe sta provando.